Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia. È un grande weekend di motori e noi abbiamo qui la voce e il volto dei motori di Sky, Carlo Vanzini, che ringrazio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. È un weekend anche strano, se vuoi, perché mette insieme due pezzi di storia, quelli che a me piacciono di più. Si corre a Monte Carlo, che è il mio gran premio preferito ed è il più anacronistico che ci sia, e si corre, racconterai, la 500 miglia. Eh sì, è un weekend, se vogliamo, il più prestigioso del motorsport. Da una parte Monte Carlo, che è la gara più lenta del mondiale di Formula 1, dall'altra la gara più veloce del pianeta. Ryan Briscoe ha conquistato la pole position a 364 km/h di media. Il comune denominatore c'è, i muri sono a pochi millimetri, sia a Monte Carlo sia a Indianapolis. Indianapolis la racconteremo su Sky Sport 2, faccio il promo subito, certo, dalle 17.30. Dalle 17.30 di domenica. Come sta andando questo campionato? Ma è molto molto divertente, perché a mio avviso la Indy ha ancora qualcosa di romantico nel motorsport. Non c'è l'aerodinamica che detta legge, conta molto di più il pilota. Barrichello sta dando la misura dei piloti americani, perché ancora non è riuscito a salire una volta sul podio. Questo vuol dire che insomma vanno veramente forte, e tra di loro sono amici e si rispettano, lasciano la porta aperta, cosa che magari in Formula 1 non avviene più, per innescare anche dei duelli. Quindi c'è molto romanticismo. Certo, poi la Formula 1 resta comunque la Formula 1, nessun confronto, direi. Diciamo, no, che sono due serie diverse, MotoGP e Superbike. Sono due cose molto diverse. A proposito di MotoGP e Superbike, avete acquisito i diritti voi di Sky della MotoGP, però c'è anche una Superbike che sta crescendo forte. Ogni tanto Valentino Rossi lancia qualche strizzatina d'occhio alla Superbike. Mi sembra che ci siano anche giochi politici, se vuoi, in questo momento. Ma io credo che Valentino sia una persona di parola, e una delle prime dichiarazioni che ha fatto è che correrà almeno altre due stagioni, sì, in MotoGP. Siamo in attesa del suo annuncio, se si tratta di un rinnovo con la Ducati Audi o si parla di Yamaha, di un ritorno con Yamaha. Honda, con il ritiro di Stoner, ha, diciamo, riaperto non la porta ma un finestrino. Si parla di un possibile arrivo di BMW che sta cercando di invogliare anche magari verso la Superbike Valentino Rossi, ma lì c'è Melandri. Insomma, le finestre sono aperte, aspettiamo quello che sarà l'annuncio da parte di Valentino Rossi. Però lui ha dichiarato: farò ancora due, sì, anni in MotoGP. Però anche lui spera che possano cambiare un po' le regole per quanto riguarda soprattutto l'elettronica, per tornare a quelle virgole sull'asfalto che piacevano tanto, che in Superbike ci sono. Io mi auguro che finisca l'agonia di Valentino Rossi in Ducati, magari, anzi certamente dico una cosa impopolare perché era il matrimonio del secolo, però non tutti i matrimoni funzionano, neanche quelli... Matrimonio non consumato. Bravo. Si sono sposati, ma la sera non hanno combinato niente. Si può chiedere l'annullamento in questo caso. No, è un peccato, però è così, insomma, non, per caratteristiche di moto e pilota non si sono fiutati mai, e l'unico che è stato in grado comunque realmente nella storia Ducati, nella MotoGP, è quello che si ritira. Sì, Stoner. Diciamo che Stoner sicuramente ha fatto qualcosa di straordinario. Il suo modo di guidare ha mandato in paranoia Melandri, ha mandato in paranoia piloti di altissimo livello. Il suo modo di guidare è assolutamente unico e ha scritto la storia della MotoGP, ma io credo che quello che più di tutti ha scritto la storia del moto mondiale è Valentino Rossi. Magari finirà, forse no, perché c'è un altro matrimonio che intanto si è inserito, diciamo è arrivata l'amante, che è l'Audi. La Ducati quest'anno ha potuto sviluppare pochissimo, perché a un certo punto le finanze sono finite. Anche durante i test non arrivavano pezzi nuovi, quindi non c'erano novità. Chissà, l'Audi, bisogna vedere che investimento, quale tipo di investimento l'Audi vuole fare sul reparto corse, sì, Ducati per il futuro. Credo che questa sia la chiave del futuro, per capire dove andrà Valentino Rossi. Andiamo a fare un salto in Formula 1. Andiamo a fare un salto in Formula 1. Ti dicevo, è il gran premio a cui sono più affezionato, quello che si corre domani a Monte Carlo. E leggendo tra le righe di questo avvio strano, non so se sei d'accordo, di questo avvio strano del mondiale, io penso che la Ferrari sia realmente favorita, perché quando doveva giocare in difesa lo ha fatto, e lo ha fatto bene. Adesso potrebbe essere il momento di di giocare all'attacco. Quindi in questi gran premi che hanno visto sempre facce nuove, facce diverse, eccetera, eccetera, la Ferrari ha avuto un andamento in fondo più costante, pur non essendo la più forte. Questo è il suo grande vantaggio, secondo me. Sì, Monte Carlo è un gran premio diverso dagli altri, è unico nel suo genere per quanto riguarda la vettura, quindi non è indicativo per il proseguo della stagione. La stagione è assolutamente lunga, perché dopo Monte Carlo mancheranno 14 gran premi, come se iniziasse dopo Monte Carlo una stagione degli anni 80. E la Ferrari ha spinto molto per presentarsi con tante novità dopo le prime quattro gare, partendo da Barcellona. L'ha sempre detto: le prime quattro gare lotteremo in difesa, poi andremo all'attacco. È andata bene nelle prime quattro gare perché è arrivata una vittoria, certo. È una vittoria straordinaria, e credo che in questo momento Alonso sia veramente il pilota più forte in circolazione. Io faccio un po' la conta dei piloti: Alonso, Hamilton, Vettel, sempre un po' mi manca quel qualcosa, non so che cosa, ma parlo di sensazioni mie. A me piace molto Button, anche se non è un personaggio così popolare rispetto a Hamilton e Alonso, però è chiaro che la Ferrari ha i mezzi per giocarselo fino alla fine questo mondiale, ha il potenziale per giocarselo, anche perché è la scuderia che ha costruito la macchina nuova rispetto alle altre, ha fatto una macchina completamente nuova, quindi una macchina completamente nuova può essere un disastro come è stato nei primi Gran Premi, ma anche dei margini di miglioramento enormi, quindi aspettiamo. Io credo che San Fernando potrà regalarci delle prestazioni fantastiche fino a fine stagione. San Fernando sì, però c'è la seconda guida che è un problema costante. Sì, abbiamo analizzato spesso la situazione di Felipe Massa. Potrebbe essere facile cambiarlo, potrebbe essere facile trovare una soluzione, magari portando prima Perez in Ferrari, perché non dimentichiamo che Perez della Sauber è già in ottica Ferrari. Potrebbe essere sostituito da Bianchi, potrebbero anche richiamare in attività Trulli, Vitantonio Liuzzi, insomma tante soluzioni, però c'è sempre quel punto di domanda: un pilota che sostituisce Massa in questo momento va effettivamente più forte di Massa? Perché lo stesso che è successo quando si è fatto male Massa, doveva essere Schumacher, poi mal di schiena, qualcuno dice che aveva visto che non era così vicino a Raikkonen, quindi gli è venuto mal di schiena, e poi è arrivato Bader, ok, era fermo da tanto tempo, è andato male, è salito Fisichella, che il Gran Premio precedente era arrivato secondo alle spalle di Raikkonen, eppure ha preso la paga da Raikkonen e non è riuscito a dimostrare quello che poteva valere Giancarlo Fisichella, quindi non so, un cambio in corsa diventa difficile. Certo è che Massa si deve dare una sveglia forte, deve puntarla all'alba a Monte Carlo e correre in pista per andare il più forte possibile. Ha perso le motivazioni ed è stato anche in qualche modo sfiduciato dall'ambiente, tanto voleva cambiarlo a inizio stagione. Oggi si parla di motori, qui vicino a me Carlo Vanzini, ma poi faremo anche una digressione calcistica e nel finale ci sarà Dario Ricci a raccontarvi il tappone di oggi, decisivo per il Giro d'Italia. Un discorso opposto forse a quello che ho fatto per la Ferrari si potrebbe fare per la McLaren, che secondo me è la macchina più forte, però non è riuscita a capitalizzare fino in fondo questo fatto di essere la più forte in avvio di stagione. Sì, credo che il discorso sia giusto nei confronti della McLaren, anche perché a mio avviso ha la coppia più forte e meglio assortita di piloti. Ha vinto Button la prima, adesso attendiamo Hamilton, perché dei grandi insomma è ancora quello che non ha vinto insieme a Raikkonen, e la McLaren ha sicuramente il potenziale, così come la Ferrari, per giocarsi il titolo fino alla fine. Ha una macchina diversa dagli altri, con il muso, ha scelto di tenere il muso basso come aveva già la passata stagione, non so quanto questo possa incidere sullo sviluppo. Abbiamo visto un'altalena di prestazioni molto strana da parte della McLaren, super forte in determinate condizioni, poi a sparire in altre condizioni, con incredibilmente con Button, che è uno che è molto bravo con le gomme, ad avere grossi problemi di gestione delle gomme. Credo che le gomme siano il nodo, ma lo sono sempre state nella storia. Forse ne parla tanto adesso, ma un mondiale è stato deciso dallo scoppio di una gomma alla macchina di Mansell, con vittoria poi di Prost contro le due Williams. Insomma, le gomme sono sempre state fondamentali, sono parte integrante delle macchine, come vanno gestite. Però McLaren, io credo McLaren, Red Bull, Ferrari se la giocheranno fino alla fine. Lotus, Williams, grande crescita, bisogna vedere quanti mezzi economici hanno per portare sviluppo da qui alla fine. So che anche tu come me sei cresciuto con le telecronache di Mario Poltronieri. Beh, è un mito. Io ho avuto la disavventura, perché la disavventura di dover doppiare, quando avevamo i diritti della Formula 1 con Sky, le gare degli anni 80, e per me è stato un lavoro impossibile, perché non si può ridoppiare il lavoro fantastico che ha fatto Mario, perché l'appuntamento per me era fisso e la sua voce per me era il mio accompagnamento della domenica, sempre. Come per me. Ciao Mario! Ciao a tutti, grazie comunque, ma adesso sono così rosso che non so se posso parlare, mi vergogno. Bisogna considerare che ho avuto una grande fortuna, e cioè quella che a quell'epoca le gare erano comunque divertenti, i piloti erano più espansivi complessivamente, quindi e l'atmosfera era un pochettino migliore di quella attuale, perché purtroppo queste formule, professionalizzandosi sempre di più, e parlo di formule perché il problema si sente, caso Stoner appunto, anche nel motociclismo, hanno un po' mortificato, se così si può dire, quello che era l'atmosfera e l'ambiente che c'era intorno alle corse. In compenso però devo ammettere a malincuore, perché io sono per quello che la Formula 1 la vede in quanto sviluppo della tecnologia in funzione dell'automobile normale, qui invece siamo su un altro binario. Comunque devo ammettere che le gare di quest'anno stanno diventando interessanti, soprattutto lo spettatore si porta un taccuino e una matita e si segna i cambi gomme, i tempi eccetera eccetera, se no il clou della gara è naturalmente la parte finale. Però al di là di queste critiche, diciamo, gentili, rimane che quest'anno il campionato è tutto da seguire, perché giustamente ricordavate l'inserimento di altre marche, quindi praticamente sono ormai 6 squadre che hanno la possibilità di competere ad alto livello. Si tratta di vedere nel corso, teniamo presente che dopo Monte Carlo non siamo ancora a un terzo di stagione, certo. Quindi praticamente il discorso è ancora tutto aperto. Però è evidente che se andiamo sul discorso Ferrari, diciamo la Ferrari ha una carta in più, che è quella di Alonso, perché Alonso è uno che è riuscito a padroneggiare situazioni ben difficili. Accennavi alla possibilità di Hamilton. Sì, Hamilton, ho l'impressione però che risenta di qualche problema, non so se di carattere familiare o di rapporti con la squadra. Non lo vedo così tranquillo da poter sempre essere tra i primissimi, cosa che invece, salvo qualche periodo negativo in prova, fa Button, il suo compagno. Quella rimane per me la squadra più forte in assoluto. Sì, appunto. L'altro giorno non ha richiamato Massa, diciamo così, con parole abbastanza forti, che deve dare un contributo alla squadra. Lo stavamo dicendo, Mario. Io ho una curiosità con Mario, voglio chiedergli se piloti del calibro di Alonso, Hamilton, Vettel, Button, Schumacher, che lo ricordiamo è ancora in attività, Raikkonen, stanno ricreando quella Formula 1 fatta di quei 4-5 nomi tosti, come ai tempi. Certo, scomodare dei nomi importanti è sempre difficile, fare confronti con le ere diverse dalla Formula 1, però i Piquet, i Mansell, i Prost sono nomi grossi, ma io credo che in questo momento abbiamo questi 4-5 piloti che stanno venendo su forte. Beh, molti sono già consacrati ovviamente, però stanno ricreando quel gruppo di piloti forti che danno prestigio al mondiale. È verissimo, è giustissimo. E, diciamo oltretutto che è un passaggio di consegne, perché rimangono i forti, perché anche Raikkonen è rientrato dando la sensazione anzi di far subito dei dispetti al Schumis, perché uno si immaginava che Schumacher sarebbe rientrato con maggiori possibilità. Ora è vero che la Mercedes non va come le altre, però effettivamente ci si aspettava qualcosa di più da lui. Invece Raikkonen mi pare è entrato già più deciso, freddo e imperturbabile come è lui. E i giovani che stanno venendo fuori, perché la gara che abbiamo visto di Maldonado ad esempio è stata interessantissima, perché è evidente che ha potuto vincere perché ha una macchina vincente, ma però è riuscito anche a guidarla ed è tutto sommato un giovane, anche se ha un'esperienza sia in Formula 1 come collaudatore sia nel GP2. Quindi hai ragione, sta ridisegnandosi quel campionato. Il problema vero è evitare che queste polemiche sotterranee che ci sono sulla formula che doveva cambiare nel 2013, poi nel 2014, adesso vorrebbero nel 2015. Bisogna vedere, c'è Montezemolo che sta manovrando, ha accennato a un campionato alternativo per essere sicuro che la formula sia quella che la Ferrari può essere più interessante. Non dimentichiamoci che la Ferrari è l'unica macchina che ha un prodotto di serie anche di altissime prestazioni, quindi la pubblicità deve venire da un mezzo che in qualche modo abbia delle caratteristiche che siano assimilabili come immagine se non come tecnologia. Ecco quindi che Montezemolo aveva ottenuto per una nuova formula il passaggio dai 4 ai 6 cilindri, sì. almeno quello. Quindi vediamo come si sviluppa la situazione. Quello che è certo però è che questo campionato, e come dico non siamo ancora arrivati a un terzo, è sicuramente molto interessante. Ah, certo, il più interessante degli ultimi anni, perché mai era successo di trovare un vincitore diverso ad ogni corsa. Mario, ti voglio chiedere ancora questo, qual è il Gran Premio di Monte Carlo che ricordi di quelli che hai commentato con maggior affetto? Io ti dico il mio, al di là delle tante vittorie di Senna, quello con Patrese e Giacomelli sul podio e tutti senza benzina. Beh, penso che stavo per dire la stessa cosa. Hai visto. Effettivamente è stato un gran premio. Beh, anche perché allora, poi non essendoci tutti questi artifici dei cambi gomme, eccetera, e effettivamente le corse potevano essere un po' monotone, soprattutto in un circuito come Monte Carlo, dove i sorpassi sono piuttosto difficili e così via. Quindi quella è stata veramente una corsa che anche per me, nel lavoro di telecronista, ho avuto qualche difficoltà a padronizzare la situazione e tenere il passo della corsa, però ecco, Patrese non sapeva niente del tutto. Te la ricordi anche tu, Carlo, quella corsa? Sì, io ricordo quella e ricordo anche, mi rimbomba la voce di Mario, la rimonta di Ayrton Senna quando insomma si è presentato al mondo proprio a Monte Carlo e quella situazione un po' particolare, se vogliamo un po' sporca nei confronti di Senna, a dare bandiera a Scacchi prima con X a dare la bandiera a Prost e poi ha perso il mondiale per quel mezzo punto, quindi insomma poi gli è ritornata quella situazione. Però insomma Monte Carlo è Monte Carlo, sarà anacronistica, sarà quello che è, ma forse la 500 miglia di Annapolis, che è l'opposto, domenica ci darà le stesse emozioni in senso diverso. Sì, sì. Grazie Mario, dimmi. Monte Carlo ha ancora il vantaggio di essere una gara del vecchio periodo, di gare stradali autentiche, anche se cittadina. Eh beh, certo, ma poi lo scenario è quello, insomma, è quello che vediamo tra i circuiti nel deserto, quelli progettati dai super ingegneri. Lasciateci questo reperto archeologico, per favore. Sì, soprattutto perché qui, pur essendo la velocità media bassa e le velocità massime relativamente contenute, è ancora una pista pericolosa, mentre quelle giustamente che ricordavi nel deserto di pericolosità ne hanno molto meno. Grazie Mario. Arrivederci. Alla prossima. Grazie a Mario Poltronieri. Grande, un mito. Un mito, eh? Un mito, sì. Non è un mito. Però vedi, avevano lo stesso gusto, cioè quella gara con tutti appiedati lungo il circuito, sì. E Giacomelli su Alfa Romeo che riesce a salire una volta nella vita sul podio. La scena più bella è Patrese che non sa dove andare, gli dicono di andare sotto il podio e ai tempi andava solo la macchina del vincitore sotto il podio. E lui ha detto, ha pensato che dovevano andare i primi tre sotto il podio, invece si è trovato lì da solo, poi gliel'hanno detto, poi è esploso. So Carlo che ti abbiamo chiamato per parlare di motori, il tuo pane quotidiano, però volevo farti sentire una cosa, perché è la più bella che ho sentito negli ultimi mesi, questa. Derby, sotto passaggio di San Siro, io saluto tutti, poi vabbè, Ernesto lo conoscevo, ti ricordi? Così, più che conoscevo e ti ricordi. E da lontano mi sento strama, mi giro, Cassano. Oh, strama, bene, sì, non so. Oh, bene, bene, dico sì, sai, è una situazione un po' difficile, ma che cazzo ti frega, ma qua bene bene, fa, ma guarda qua, guarda che nel calcio se fai bene parano subito, i giocatori parano subito, io avevo due piani sopra Wes, Wes mi ha detto, questo qua è un fenomeno, questo, dico, forse Wes ha un po' esagerato, oh, Wes guarda che non dà retta manco a padre e la madre, è l'altro della tua squadra l'Inter Stramaccioni. Non so se sia un grande allenatore, certamente ha un futuro come cabarettista. Sì, grande imitatore di Cassano, bello. Ma io, guarda, ti racconto tutto questo episodio, ero a parlare di motori in studio, e, l'Inter aveva vinto la Coppa della Gioventù, sì. L'ha chiamata la Champions dei Giovani, non lo so come definirla, e ero in studio, ne stavano parlando, ho detto, bah, io se fossi Moratti prenderei Stramaccioni, che è l'allenatore di questa squadra, e lo metterei ad allenare da qui alla fine inserendo i giovani. Esco e stava entrando Stramaccioni che veniva lì a raccontare di quella vittoria e ha detto, cos'è che hai detto tu, scusa, perché io non vado in onda adesso. Ha detto, no, ma guarda, secondo me era una provocazione ovviamente, poi dopo evidentemente Moratti ha sentito. Buona idea. Anche tu hai un futuro come direttore sportivo dell'Inter. Sì, beh, insomma, in questo momento... Che Inter vorresti? Ma io vorrei un Inter... Che io vorrei soprattutto un calcio che dia un po' spazio agli italiani, ai giovani italiani. Guardavo una cosa strana per quanto riguarda il tennis, c'è il torneo giovanile più importante a livello mondiale in Italia adesso, e guardavo, sono tutti giocatori dei paesi dell'est. Vuol dire che fame, tra virgolette, certo. Fame per arrivare, e vedo che nel calcio siamo ormai, parlo di livello giovanile, con tanti stranieri. Spero che si faccia un lavoro sui giovani, ma è banale dire questo, i giovani in Italia. Io invito i giovani italiani a soffrire di più. Bravo. I nostri giovani hanno la vita un po' comoda. Bravo. E quando c'è da fare quel 10 addominali in più, magari ne fanno 10 in meno, mentre chi ha fame di arrivare fa quei 10 addominali in più. Quindi ragazzi italiani, sveglia, datevi da fare, perché non si privilegiano gli stranieri, si privilegia il lavoro. Bravo, il lavoro si privilegiano quelli bravi e quelli che hanno voglia. Mirko Graziano della Gazzetta dello Sport, ciao Mirko. Ciao a tutti voi. Quindi adesso puoi scrivere il retroscena dell'ingaggio di Stramaccioni. Ha detto esatto. Carlo Vanzini. Abbiamo scoperto tutto. Ecco. Adesso sappiamo tutto. È colpa mia. Esatto, da adesso è un merito o una colpa. Vedremo, il futuro lo dirà. No, ma tu Mirko, che carriera ti aspetti per Stramaccioni all'Inter? Perché io ho avuto la sensazione che insomma nel finale di campionato vinceva la partita, allora assolutamente la panchina era sua, non si discute neanche. Anche. Poi se andava un po' meno bene, si resta, però vediamo, ma magari forse. Io a Stramaccioni auguro, per potersi giocare tutte le sue carte, che l'Inter insomma cambi decisamente registro, volti decisamente pagina, quindi si liberi, tra virgolette, nel senso più buono della parola, di tutto ciò che è stato triplete, di tutti gli anziani, tutti quelli che contano troppo nello spogliatoio, che si ricominci da zero con questo allenatore nuovo, che in maniera tale che questo allenatore nuovo possa davvero giocarsi senza nessun tipo di condizionamento tutte le sue carte. Altrimenti ho sempre il timore che possa venire schiacciato dall'ambiente. L'ambiente Inter è terribile. C'è sempre il rischio che insomma dopo due o tre partite andate male lì esploda tutto. Appunto. Quindi io mi auguro che l'Inter, scegliendo questo allenatore, abbia anche deciso di voltare definitivamente pagine, quindi di ribaltare completamente la rosa. Ti piace così, Carlo? Ma assolutamente sono d'accordo, perché lo ha dimostrato la Juventus, che ha cambiato linea mettendo in chiaro fin da subito che sarebbe stata l'ultima stagione di Del Piero, creando ovviamente tutte le discussioni del caso, perché esatto. Adesso lì sono a discutere che Del Piero invece va tenuto. Credo che sia un modo per dare un segnale, quello sia stato un modo importante per dare un segnale alla squadra. Del Piero andrà via, avrà finito a fine stagione, come dire, abbiamo voltato pagina. Chiaro, Del Piero ha fatto grandissime cose, ha contribuito in modo determinante alla conquista dello scudetto, però la linea societaria è stata chiara. I veterani non sono più al centro del progetto, al centro del progetto ci sono i giovani, quelli che poi devono fare la storia e il futuro delle varie società. I vecchiacci, tu non vuoi dire anziani, io dico i vecchiacci. C'è chi dice, c'è Del Piero? Sentiamo che comunque non vuole mica smettere. Si tratta di scegliere una situazione il più possibile ideale o vedere quelle che sono le opportunità più stimolanti conoscendo e andando a conoscere le persone possibilmente direttamente in maniera tale che ci possa essere uno scambio di energia, che penso che sia una cosa fondamentale. Poi il campionato non è il mio primo obiettivo necessariamente, giocare un campionato o un altro. Non è importante il campionato, però continuerò a giocare. C'è chi dice quello che hai detto tu, e cioè che la Juventus ha cominciato a vincere lo scudetto il giorno in cui ha preso questa impopolare e pubblica decisione di licenziare Alex Del Piero. Mirko? Io ti ripeto, sì, esattamente quello che volevo dire prima per quanto riguarda l'Inter. È stato un modo per dare grande forza all'allenatore, per dare grande forza a tutto il progetto, per mandare un messaggio ai giovani che si affacciavano per la prima volta a un certo tipo di ribalta alla Juventus. Insomma, era un messaggio chiaro che di fatto debellava qualsiasi tipo di, chiamiamolo nonnismo per usare una brutta parola, però insomma era un messaggio chiaro per dire: questa qui è aria nuova, tutti vi giocate le carte alla pari e dimostrate di essere da Juventus. Arriva un momento in cui bisogna farlo, è doloroso perché vai a toccare campioni molto amati dalla gente, gente che ha dato tantissimo alla tua squadra, però se vuoi andare avanti bisogna avere il coraggio di prendere questo tipo di decisioni. Purtroppo in Italia è sempre molto difficile, ci cascano tutte le grandi, ci cascò il Milan quando non certo. Cambiò la squadra perché aveva di fatto vinto una Champions League, c'è cascata l'Inter dopo il triplete, ha avuto la grande occasione di liberarsi anche a suon di milioni di molti dei suoi campioni che erano obiettivamente diciamo nella fase finale della carriera, ma si vedeva che erano nella fase finale della carriera, eppure neanche allora si ebbe il coraggio di cambiare e alla fine si finisce per perdere molto tempo. Vi ricordate anche il Milan con Franco Baresi, insomma si finisce per perdere un paio di stagioni inutilmente. Purtroppo in Italia in questo errore ci si incappa sempre e non capisco il perché. Forse nello sport la riconoscenza non esiste, sarò cinico ma, sì. Ma è così, nello sport certo, la riconoscenza non esiste. Anche perché la squadra di calcio è dei tifosi. Allora il tifoso ama il campione finché il campione è tale, ma quando poi la squadra comincia ad andare male, il tifoso poi se la piglia anche quel campione. Assicuro. Senti, l'ultima cosa, so che sei al seguito della nazionale, come si sta comportando Cassano e Balotelli? Ma devo dire molto bene. Addirittura molto bene. Addirittura molto bene, vediamo quanto dura. Questo, però questo è preoccupante. Un Cassano particolare motivatissimo, tra l'altro in ottima condizione fisica, molto sereno. Davvero molto sereno, io non so se durerà, ma se dura lui è davvero uno di quei giocatori che può spostare. Speriamo non finisca il Valium, caro mio, speriamo non che abbiano scorte abbondanti da qui alla fine degli europei. Grazie Mirko, un abbraccio, ciao a tutti. Ciao. Senti, invece Balotelli non rimorresti all'Inter? Secondo me sarà, io l'ho dichiarato nei giorni scorsi, sarà il grande protagonista azzurro degli europei. Non so dire dove arriverà l'Italia, in fondo sarà bello scoprirlo insieme, però... io scommetto su un grande europeo di Balotelli. C'è stato subito un ascoltatore che mi ha chiamato: se Balotelli non fa una balotellata già nella prima partita contro la Spagna attraverso Verona in mutande, ha detto così. Ma io credo che Balotelli abbia un talento straordinario e cado abbastanza nella banalità a dire che non deve sprecarlo con gesti che conosciamo e deve riuscire a essere concentrato sempre su quello che è l'obiettivo è quello di diventare un super campione. È stato secondo me sbalottato Balotelli dall'arrivare alla fama, arrivare ai soldi, arrivare a quel qualcosa che forse non ha avuto quando era giovane e se li ha goduti e se li sta godendo. Adesso devi capire che non bastano i soldi per essere felici, bisogna vincere. Ha vinto col City, adesso deve vincere con la nazionale. Poi Carlo, ti ringrazio molto, sei stato grazie con noi. Grazie a voi. Grazie davvero a Carlo Vanzini. Voci dal giro. Bentrovati con le voci dal giro da Dario Ricci. Una tappa mitica, quella che ha visto l'arrivo sullo Stelvio, la penultima di questo Giro d'Italia, e adesso andiamo proprio sullo Stelvio per sapere com'è andata. C'è stata questa grande impresa del belga De Gendt e un giro che si deciderà a questo punto davvero all'ultima curva della cronometro di domani. Prima però il concorso per vincere il polsino brandizzato Radio 24 e firmato da Ivan Basso. La domanda: quante volte ha vinto il Giro d'Italia Felice Gimondi? La risposta deve arrivare al nostro numero 349-238-6666 via SMS. Il più veloce tra di voi vincerà appunto questo preziosissimo gadget. Ma andiamo subito sullo Stelvio, in cima allo Stelvio, da Pier Augusto Stagi. Allora Pier Augusto, una tappa finalmente incandescente, illuminata dall'impresa di De Gendt, primo sullo Stelvio, 55 secondi su Cunego, Nieve a 2,50, poi la maglia rosa Rodriguez a 3,23, Scarponi una manciata di secondi più dietro, perde qualcosa anche Eisedal a 3,36 e invece cede il nostro Ivan Basso 4,55. Questo l'arrivo di tappa, secondo più secondo meno. Rodriguez mantiene la maglia rosa, Pier Augusto con 31 secondi su Eisedal, 1,51 su Scarponi, 2,18 su De Gendt, 3,18 su Basso. Direi che fino a De Gendt domani può succedere di tutto, ma raccontaci Pierre, che tappa è stata? Ma innanzitutto è stata una tappa bellissima, con lo Stelvio, il Mortirolo, il ciclismo si esalta, c'ha due monumenti nazionali da scalare, è stato uno spettacolo nello spettacolo, lo spettacolo della gente, non avete idea di quanti appassionati sono saliti sul Mortirolo in bicicletta e lungo i 22 chilometri dello Stelvio. Lo spettacolo è stato dato proprio sul Mortirolo da Thomas De Gendt, che è andato via col nostro Matteo Carrara, compagno di squadra della Vacanza Soleil, e hanno veramente realizzato un'impresa. Thomas De Gendt è questo ragazzo di 25 anni, che l'anno scorso è arrivato anche sesto all'Alpe d'Huez, ha ottenuto un quarto posto nella cronometro finale del Tour de France con una micro frattura alla clavicola, ha fatto veramente una grandissima impresa e si giocherà questo Giro d'Italia domani a cronometro, perché appunto lui è un buon cronoman. Certo, bisogna vedere quanto resterà nelle gambe dei corridori il Mortirolo, il Tonale, la Brica, lo Stelvio, quanta energia rimane dopo tre settimane di fatica. Oggi è stato molto bravo Damiano Cunego, che come hai ricordato tu è arrivato secondo a una manciata di secondi. Scarponi ha cercato il colpo a 2,5 km dal traguardo per far saltare il banco, per distanziare Eisedal, Rodriguez, e c'era anche riuscito. Aveva dato l'impressione proprio di andare via, poi si è spento sul traguardo, le energie sono quelle che sono. Uno che invece non è mai stato, diciamo, della partita, ha subito la corsa, ha subito la montagna, lo Stelvio non gli porta fortuna, ma l'aveva già dimostrato sul Mortirolo, non era brillante, aveva perso qualche metro il nostro Ivan Basso. Sì. E oggi dobbiamo dire con briciolo di tristezza, ma anche di serenità, che probabilmente Ivan dovrà cambiare il suo ruolo per i prossimi anni di corsa, non potrà più puntare ai grandi giri, ma probabilmente dovrà diventare quel punto di riferimento per i giovani, quel grande vecchio che può insegnare a qualche buon giovane a diventare un campione come è stato in grado lui. Eh sì, davvero, hai fotografato perfettamente quello che è accaduto sullo Stelvio. Pier Augusto, direi per la prima volta si è visto Eisedal un po' col fiatone, questa è anche un po' la notizia del giorno, Sì, beh, Eisedal è stato isolato, è rimasto con Van de Velde, che ha fatto un lavoro eccezionale, poi tutti l'hanno messo in mezzo. Logicamente Ryder Eisedal è stato anche un po' esuberante in questi giorni, ha rilasciato dichiarazioni di grande forza, ha detto a più volte non ho visto in gruppo nessuno più forte di me, e quindi oggi quando l'hanno trovato isolato, quando hanno visto che De Gendt stava volando verso la maglia rosa virtuale, nessuno si è mosso. Certo, gli hanno detto dimostraci che allora è vero. Esattamente, il ciclismo è così, è un gioco anche tattico, un gioco di nervi, un gioco di astuzia, tu devi veramente sentire, respirare la corsa con le energie che hai, e oggi le energie erano poche, perché ricordiamo siamo arrivati nel punto più alto, mai corsa ciclistica ha avuto un arrivo così in alta quota, 2757 metri, dove veramente è difficile solo respirare, solo camminare a queste latitudini, Oggi c'è stata veramente una grande gara. Oggi credo che il ciclismo abbia dato dimostrazione di sé, della sua grandezza, della sua forza. Forse i protagonisti non sono stati così grandi quanto la Stelvio, ad eccezione di Thomas De Gendt, che è stato veramente, veramente grande. E domani, nonostante partirà per quart'ultimo e dovrà recuperare parecchio, perché sono 2:18 della maglia rosa, però non è detta l'ultima parola, potrebbe esserci veramente una grande sorpresa. Eh sì, anche perché l'ultimo cronometro spariglia sempre le carte in tavola e non rispetta mai troppo fedelmente i pronostici della vigilia. Intanto il nostro amico Cesare, il nostro ascoltatore, centra la risposta giusta per prima. 3 volte Felice Gimondi ha vinto il Giro d'Italia e quindi a lui andrà il polsino a doppia firma Radio 24 e Ivan Basso. Ti chiedo per chiudere, Pier Augusto, forse un po' timida la maglia rosa Rodriguez, fatto salvo tutta la premessa che hai fatto, e cioè che non era certo facile trovare energie e forza per attaccare, però il Rodriguez, visto nell'ultimo chilometro, forse qualcosina in più poteva fare prima per avvantaggiarsi ulteriormente sui rivali sicuramente più forti di lui a cronometro. Dario, è vero quello che dici. No, detto dalla poltrona è sicuramente più facile. Però è anche vero che i corridori sanno perfettamente quello che hanno da spendere, sanno quanta benzina hanno nelle gambe, e logicamente Joaquin Rodriguez ha tentato il tutto per tutto nel punto dove poteva tentarlo, che era appunto praticamente in prossimità dell'ultimo chilometro. Sapeva che con i suoi scatti, la sua progressione, poteva mettere in difficoltà il gigantesco Edda, ricordiamo che è alto 194 centimetri, ed è riuscito a portare via quei 20 secondi che domani potrebbero, non lo mettono per niente al sicuro per Ezedal, è nettamente più forte, perché secondo me sarà un duello tra Ryder Ezedal e Thomas De Gendt. Devo dire, purtroppo per noi, che domani sera a Milano potremmo vedere un podio tutto straniero, perché uno che rischia veramente grosso è proprio Michele Scarponi, che questa sera è terzo, ma se tutto va come deve andare, cioè le forze in campo, De Gendt è quello che è destinato a salire sul podio. Eh sì, le forze in campo sono quelle, anche le forze nelle gambe. Scarponi, che anche oggi però ha fatto la sua parte, no? Allungando nella fase finale della tappa, prima di essere ripreso e scavalcato da Rodriguez. Direi uno Scarponi che chiude il giro, lo vedremo domani come, ma senza troppi rimpianti. Esattamente, Scarponi perlomeno ci ha provato. Ha cercato di fare quello che aveva appunto nel cuore, nella testa e nelle gambe. Probabilmente non è arrivato al giro come con la condizione dell'anno scorso, non l'abbiamo mai visto brillantissimo, però ha onorato la corsa e ha dato quello che aveva. Ecco, ti chiedo un'ultima battuta, in questo caso su uno dei grandi assenti, cioè quel Nibali che ha tutt'altri obiettivi per questa stagione. Poteva essere il suo giro, visto come sono andate le cose? Guarda, dire quei sei mai forse è sempre difficile, però io sono convinto che un Vincenzo Nibali, soprattutto per la tanta discesa che c'era in questo Giro d'Italia, con le salite, è sicuramente è il corridore più completo che noi abbiamo, è il corridore più internazionale che abbiamo in questo momento, è l'unico che veramente può portare in alto il nostro vessillo nei grandi giri, non per niente sarà la nostra punta al Tour de France. Certo. Allora, Pier Augusto, ricordiamo la classifica: Rodriguez in rosa, Ezedal a 31 secondi, Scarponi a 1 minuto e 51, De Gendt a 2:18 dopo la splendida vittoria di oggi, Basso, Ivan Basso a 3:18, domani cronometro individuale di 30 km a Milano, può veramente succedere di tutto. Allora Pier, io intanto ti saluto, ma resta lì perché poi nel GR delle 18 darai sintesi in un minuto di questa splendida giornata, e noi ci sentiamo nei prossimi appuntamenti. Appuntamenti nel corso della serata nei GR24. Un grazie in regia a Valeria Bernardi e Carmelo Lauricella. Un saluto da Dario Ricci.